Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati, sono a Venezia e sono al Museo Correr per raccontarvi la storia di un pittore che non è famosissimo ma che ha avuto una vita veramente rocambolesca. Questo pittore si chiamava Ippolito Caffi ed è stato uno dei grandi vedutisti, cioè pittori di vedute dell'Ottocento. Perché questo pittore è così importante? Intanto per la qualità straordinaria dei suoi dipinti, è una sorta di Canaletto, di Bellotto dell'Ottocento, continua questa grande tradizione dei veneti, anche lui era veneto, era di Belluno. Ma la caratteristica di questo personaggio era la vita spericolata, perché Caffi non era solo un artista, ma era un artista che spesso e volentieri faceva delle cose pericolose. Per esempio, arrivato a Roma e in occasione delle prime ascensioni con la mongolfiera, volle salire anche lui sulla mongolfiera ed è stato uno dei primi artisti a riprendere le città a volo d'uccello, ma nel senso vero della parola, non come si inventavano salendo sui campanili come facevano prima. Quindi usava queste sperimentazioni. Era un personaggio particolarmente esagitato, quindi si mosse in tutto il mondo di allora, visitò gran parte dell'Europa lasciando delle vedute straordinarie. Tra l'altro, quando era a Roma faceva le vedute dei fori e delle antichità, trovandosi a Parigi colpito dalla Ville Lumière, quindi dall'illuminazione pubblica, fa delle vedute molto originali e molto moderne di Parigi, e così va a visitare le piramidi, cioè segue quelli che erano gli itinerari turistici più importanti. A un certo punto decide di fare un lavoro che molti artisti facevano, noi non lo sappiamo, ma molti lo facevano, cioè quello di seguire le truppe. I reporter di oggi hanno le telecamere e tutte le tecnologie. Quando si voleva documentare una guerra si portava uno scrittore e un pittore insieme. Ecco, Ippolito Caffi faceva anche, si prestava anche a fare il pittore di battaglie, cioè veniva lì e seguendo dal vivo la battaglia poi l'avrebbe documentata prima con degli schizzi veloci e poi con dei dipinti. Ecco, questa diciamo passione gli sarà fatale. Perché? Perché il nostro Ippolito Caffi va su una nave a seguire la battaglia di Lissa, una delle nostre terribili sconfitte nelle guerre di indipendenza, e purtroppo guarda caso la nave in cui lui si trova viene colpita e silurata e il povero pittore muore tra le acque di Lissa nel 1866. La vedova però, che aveva conservato gran parte dei dipinti, decide a un certo punto di fare una donazione quasi intera ai musei civici di Venezia. Ecco perché la città di Venezia possiede questa straordinaria serie di dipinti che ci documenta questo pittore viaggiante che dalla sua Venezia ha documentato tutta l'Europa e l'Oriente, il Medio Oriente e l'Africa, che ha potuto visitare con questo suo carattere esagitato e poco conformista.